Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, eccoci, il nostro Oscar ha appena vinto una battaglia durissima. Carissima. Contro le cuffie ingarbugliate, ma 1-0 per Oscar Giannino. Sembrava quasi la battaglia contro la minoranza PD dalla... Allora, però io ti devo fare un appunto. Sì. Anche tu, come tu. No, Leopolda. Leopolda. Leopolda, non Leopolda. Tutti Leopolda. C'avete questa Leopolda che non capisco da dove viene. Milanese. Leopolda. Leopolda. Con la aperta. Capisci? Leopolda. Io chiamavo Poldo anche quello che mangiava i panini di Braccio di Ferro. Esatto. Sempre Poldo, ve lo ricordate? Poldo. Ma c'è ancora qualche bambino, secondo te, che conosce Braccio di Ferro? Ma no. Figurarsi. Sono cose di noi preistorici. Bambini, sapete chi è Poldo o Poldo? Per me che si mangiava 50 panini. Ma no, ma oggi sarebbe vietato. Perché capisci, politicamente scorretto per il suo regime alimentare. Questo è il punto. Mio Dio, in che mondo viviamo. Allora, oggi Sant'Ernesto. E tra gli altri auguri anche chi si chiama, oggi c'è una filza di santi da nomi stranissimi, comunque Amarando, Baudino, Ercolano, Fiorenzo, Ierone, Mamante, Prosdocimo, mi fermo qua. Oggi nasceva, pensa, il quotidiano più antico che è ancora in edicola, che è il London Gazette, nasce nel 1665. Una sfida aperta a chi dice che l'evoluzione tecnologica condanna la carta stampata. Dipende da come si fanno i giornali della carta stampata. Però, detto questo, mi fa molto ridere, perché oggi, nel 1973, pensa quanti decenni fa, Ugo La Malfa, all'epoca ministro del tesoro, lanciò il primo grandissimo attacco contro il deficit pubblico della storia istituzionale italiana. Purtroppo amaramente mi scappa da ridere. Sono passati un po' di anni e il deficit è stato aumentato. Ecco, esatto. Quindi mi scappa un po' da ridere, però purtroppo è così. Nasceva la prima web radio nel 1994. L'avevano inventata dei giovani studenti dell'Università della California, la radio dei giovani dell'Università della California. Pensa al 1994, la prima radio digitale. Hillary eletta al Senato nel 2000. Vediamo se domani la leggono da qualche altra parte. E auguri a chi compie gli anni oggi. Tra due, ne ho scelte due. Gigi Riva. E il cardinale di Milano Angelo Scola. Anche Raffaella Calandra oggi compie, la nostra collega. È questo, dai, anche mia suocera. Ah, ringrazio. È questo. Non farmi questo decalage però, no, vabbè, con la suocera, perché le persone famose. No, hai ragione. E io insomma metto queste. Allora, Leopolda. Allora, alla Leopolda. Adesso no, non esagerare, ti faccio perso. Alla Leopolda c'è stato questo. Ma ecco, io devo dire, Oscar, premessa, pensare che domani leggono quello che viene considerato, ancora non so se ha torto o ragione, l'uomo o la donna, in questo caso più potente al mondo, ma noi per il momento ci dobbiamo occupare. D'accordo con te. I giornali si occupano. Qualche eccesso, diciamo di così. Cooperlo, Gotor, Renzi, io apprezzo, per esempio, Bersani, l'ho Speranza. Detto prima, mentre discutiamo sui giornali del giorno, viva per me. La scelta controcorrente di Maurizio Molinari alla Stampa, che fa le prime 12 pagine sull'America e quello che sta accadendo contro l'ISIS in Siria e in Iraq, perché lì c'è un problema che riguarda la Russia, l'America, la Turchia, l'Europa e così via, e mette la Leopolda nelle due paginette dopo insieme alla politica interna. E invece qua la Leopolda, ah, vedi che, sai come si chiamava Poldo, tra l'altro, il cognome, non mi... Poldo Sbaffini, sì, me lo ricordavo, è proprio grande, perché ascoltatore. Sbaffava. Comunque Renzi, è finita così la Leopolda, con Renzi che ha fatto questo duro attacco alla minoranza PD. Il messaggio è che sostanzialmente gli stessi che 18 anni fa decretarono la fine dell'Ulivo perché non erano loro a comandare la sinistra, stanno provando a decretare la fine del Partito Democratico perché hanno perso un congresso e usano il referendum costituzionale come lo strumento, ecco, per ritornare a giocare la partita. Qui di non si sente, ma è il fuori che si è elevato come coro. Speranza dice: sono incazzato nero, il premier avrebbe dovuto fermarli, non siamo al clima da stadio, siamo questa famosa Bersani ha detto pagliacciate. Secondo me il titolo l'ha azzeccato oggi il Messaggero, il titolo d'apertura è Renzi, la sinistra rovina il PD, che pensa per la storia di quel pezzo che viene direttamente dal PC sentirsi una cosa simile. Sì, la sinistra rovina il PD. Comunque, questa eterna discussione sulla scissione, non scissione, che ci trascina. Che palle. No, sì. Ma che palle, perché lo dico con rispetto del segretario e dell'opposizione, però capite bene che avete ridotto questi anni di politica italiana all'eterna direzione del PD sul congresso, basta il pezzo di carta, Cooperlo che traditore per entrambi, quanti brutti alla ricerca di un Cesare senza mai il fegato di andare a Filippi e mettersi la spada nella pancia propria, scusate se ve lo dico. Sì, esatto. Noi magari concentriamoci, domani c'è un presidente che si elegge, oppure noi ci concentriamo anche su altre cose oggi, ci vogliamo concentrare su altre cose. Il post terremoto, la ricostruzione, visto che c'è stato un decreto, tra l'altro questa non è male, Oscar, che arriva dal nostro ascoltatore: chi dissente dalla maggioranza PD, peste Leopolda. Questa è carina, non è male, Riccardo ci manda questa è carina. No, vabbè, vogliamo concentrarci intanto sulla ricostruzione post terremoto. Hai visto tra l'altro che il Fatto Quotidiano oggi racconta dei famosi milioni, 17 milioni per il post terremoto in Irpinia. Ma pensa che sia in Irpinia che in Medice stiamo ancora pagando, certo, capito? Certo. E allora, siccome il Consiglio dei Ministri ha varato alcune deroghe, tanto per cambiare, siamo sempre alle deroghe, perché scopriamo, possiamo riformare le norme, abbiamo rifatto il codice degli appalti, ma servono sempre delle deroghe. Allora ricordiamoci che con le deroghe, primo, procure avvisate, perché è ovvio. Mm-hmm. Secondo, attenti che di deroga in deroga poi si finisce coi decenni a continuare a pagare, a fare le deroghe. Tu, Oscar, sei sempre stato molto critico a questa idea della deroga, che ha portato a dei guai giudiziari, non ha portato a snellire, esatto, a velocizzare, soprattutto non ha dato porta grande... a discrezionalità la deroga. Allora io vorrei poche regole chiare ma non discrezionali. Allora vediamo se ciò è possibile, lo chiediamo a uno che è commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha scritto anche un libro per Chiare Lettere dal titolo È normale, lo fanno tutti, e vogliamo intanto chiedere che cosa sia normale, perché dal titolo e che cosa fanno tutti in Italia, è Michele Corradino che è con noi. Buongiorno, dottor Corradino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lo fanno tutti che cosa? Insomma, niente di positivo, ecco, mettiamo niente così. Niente di positivo, ahimè. Si tratta di un dialogo tra due ragazzi in cui lui si offre di portare a lei un computer, ma che gli viene dato da un'impresa che lavora nel comune presso il quale lui è dipendente. Lei gli dice: ma tu rubi? E lui risponde: è normale, lo fanno tutti. Ritenevo fosse un dialogo sintomatico di una normalizzazione della corruzione che nel nostro paese è ormai imperante, e il libro è tutto fondato sulle intercettazioni. Ho cercato di descrivere il fenomeno della corruzione attraverso i dialoghi delle intercettazioni, e ahimè vengono fuori queste situazioni talvolta addirittura anche esilaranti, se non fossero drammatiche, perché questa normalizzazione comporta il fatto che le persone tra loro, i corrotti, i corruttori, affaristi, parlano come se nulla fosse, come se tutto fosse appunto normale. Però Corradino, la speranza di Oscar Giannino, cioè di avere poche regole snelle, senza deroghe ma snelle, veloci, quindi e poi discrezionali, cioè, e a prova di legalità anche, esatto, a prova di quindi niente burocrazia ma anche legalità, perché sembra che siano in conflitto queste due cose, bisogna mettere più burocrazia per garantire la legalità, si può. Guardi, invece io proprio nel libro parlo di un capitolo che si chiama proprio così, dice: la corruzione si nutre di burocrazia, non c'è dubbio, si nutre di burocrazia perché l'imprenditore, ma talvolta anche il cittadino, di fronte alla complessità delle regole può trovarsi spinto, sbagliato, ma può essere spinto ad aggirare la burocrazia attraverso il sistema della tangente. Abbiamo visto come qualche imprenditore mette proprio la tangente a costo di impresa, a bilancio, perché costa di meno rispetto all'attesa dei tempi burocratici. Occorre quindi la sfida della semplificazione della pubblica amministrazione, io credo che sia la sfida delle sfide, è assolutamente fondamentale. E però voi avete colto bene nel segno, cioè da una parte c'è la semplificazione, l'esigenza di avere una burocrazia chiara, precisa, regole sicure di fronte alle quali si può quindi protestare nell'ipotesi in cui non vengono applicate e non pagare tangenti, dall'altra però c'è l'esigenza di legalità. Ecco, io non credo che i due dati siano in contrasto, io credo piuttosto che ci sia una parola magica, che sia quella della trasparenza, cioè noi dobbiamo dare regole chiare, precise, ma al tempo stesso obbligare le pubbliche amministrazioni ad una trasparenza globale, una trasparenza sistematica, tale che tutti però, anche i cittadini, non soltanto gli esperti di diritto, quelli che riescono a leggere gli atti, quegli atti con quelle litanie, visto, considerato, non si capisce niente, ecco, invece dati semplici, come avviene negli Stati Uniti, chiari, che tutti possiamo capire anche attraverso delle semplici atti. A prova di legalità. Esatto, a prova di legalità. Corradino, le posso dire una cosa, traendo spunto dal fatto che lei nel capitolo finale, quello in cui fa le proposte nel suo libro, ce n'è uno proprio sulla trasparenza degli appalti. Allora, io vedo questi nuovi decreti in arrivo sul terremoto e i sindaci e i colpiti dal terremoto mi hanno già detto in trasmissione: ha ragione chi chiede le deroghe. Ho capito, ha ragione chi chiede le deroghe. Ogni volta c'è una ragione per le deroghe. L'Expo era, erano arrivati troppo tardi, abbiamo dato regime di deroghe dicendo a voi dell'ANAC andate voi a controllare, ma deroga. Il bilancio ce l'avete consegnato, cioè dei 18 maggiori appalti raddoppiato ciò che si è speso davvero rispetto ai termini di aggiudicazione dell'asta, con adesso qui non voglio farla lunga, ma aste chiuse a 160 milioni che poi sono costati 260 milioni. Allora, questo è ciò che si paga alla discrezionalità e alle deroghe, secondo me, cioè l'aggravio dei costi, la discrezionalità. Allora, le dico, rispetto a questo terremoto, le deroghe date e che verranno ridate, perché i sindaci le stanno invocando, secondo me la vera risposta sarebbe una piattaforma tutta digitale, e non mi interessa se la PA dice non ce l'abbiamo, devono averla, in cui ogni passo, ogni cosa sia immediatamente trasparente e controllabile da voi dal centro, ma con un computer, non coi faldoni di carta ad aspettare dopo anni, se no il bilancio dell'Expo ce lo date un anno dopo, come avete fatto adesso, e io vi ringrazio, perché tra l'altro solo Repubblica di Milano ha dato ampio spazio a questa roba, perché è politicamente scorretto parlarne, per così dire, e invece sono tre processi già aperti, altre sei indagini in corso su questa roba qua dell'Expo. Ma secondo lei è troppo chiedere che sia una piattaforma digitale di tracciabilità la vera risposta, più che mille deroghe, mille norme? Guardi, la piattaforma digitale è assolutamente fondamentale, ma quello che è importante dire è che già c'è. Quindi noi non dobbiamo inventarci qualcosa. È dal 2013 e noi abbiamo un decreto, che siamo al 33, che obbliga tutte le amministrazioni a mettere tutti i dati in linea in modo confrontabile, così dice la legge. E questa è una novità straordinaria, perché se noi abbiamo i dati confrontabili, attenzione, non i documenti, i dati, i numeri che tutti possiamo capire, tutti possiamo elaborare attraverso delle semplici applicazioni, come avviene con il governo federale americano. Diverto con il mio iPhone andare a guardare cosa fa il governo federale americano. Ecco, anche in Italia questo sistema c'è già dal 2013, va soltanto applicato, e noi stiamo cercando in qualche modo ovviamente di farlo applicare alle pubbliche amministrazioni. E quindi credo che questa, la svolta digitale, sia la vera svolta, senza che le amministrazioni debbano dirci loro cosa farci vedere e cosa non farci vedere. Al contrario, a me questo sistema paternalistico della pubblica amministrazione che ci racconta cosa vuole non piace. Io voglio vedere tutto, voglio sapere tutti i numeri della pubblica amministrazione, tutti i dati, e poi decido io cosa andare a controllare. Il cittadino, ma anche i giornalisti d'inchiesta, che hanno un ruolo fondamentale in questo senso. Sì. Cittadini e giornalisti d'inchiesta insieme a controllare come l'amministrazione, la politica spende i nostri soldi. E Corradino, riguardo a questi proprio a questo terremoto e alla ricostruzione di questo sisma, ci sono già segnalazioni? Per esempio, so che il Movimento 5 Stelle ha già fatto segnalazione su una cooperativa, su un appalto che è stato assegnato. Cioè, voi prevedete, come dire, maggiore lavoro? È stato chiamato tra l'altro il prefetto Tronca a controllare che tutto sia fatto con i dovuti crismi. La segnalazione riguarda il fatto che questo soggetto assegnatario di una prima gara ha avuto una sanzione favorevole da parte del TAR, una sanzione prima dell'antitrust. Su questo punto mi consentirà di non dire tanto, probabilmente di una cosa di cui ci occuperemo poi. Chiaro. In maniera... No, io voglio solo dire ai nostri ascoltatori che si parla di CNS, gigante delle coop, certo. E questa cosa, cioè, dice, ma ha vinto la gara prima, è una gara da 1,1 miliardi di euro per le casette terremoto. Però, diciamo, dovrete occuparvene. Però ci sono già pezzi di pubblica amministrazione, la ASL di Salerno, che ha fatto partire l'autotutela di fronte a una cooperativa che becca sanzioni confermate dal TAR perché fa la gara viziata dal fatto che fa accordi di cartello. Io per il momento, per cautela, per evitare poi future indagini di danno erariale, lo escludo dalle gare. Domanda: deve valere anche per quella gara da 1,1 miliardi per le casette o no? La logica direbbe di sì, però ascoltiamo e vediamo cosa ci dirà l'ANAC. Comunque l'attenzione è altissima da parte dell'autorità anticorruzione. Noi già abbiamo verificato in alcuni consigli fa, un paio di consigli fa, abbiamo già verificato alcuni degli acquisti che sono stati fatti. perché sono acquisti che sono fatti d'urgenza e d'altra parte non potrebbero che essere fatti così di fronte ad un'emergenza. Di fronte ad un'emergenza ci sono dei bisogni primari, c'è freddo, c'è fame, quindi ovviamente bisogna... qui è molto diverso dalla situazione di Expo in cui si è perso del tempo e poi sono stati a recuperare. E si è andato a recuperare, oppure pensiamo anche ai grandi eventi che c'erano una volta, ricordate il G7 in Sardegna. Sì, ecco, sì. Qui è il contrario, il tempo non va perso, freddo, cioè bisogna dare risposte immediatamente. Però poi dopo si può andare a verificare, così come per esempio l'autorità anticorruzione ha verificato il prezzo delle coperte che sono state acquistate d'urgenza, insomma, quella notte. Ecco, quindi c'è un'altissima attenzione. Ed è tutto a posto? Cioè, avete... Sì, in quell'occasione è stata verificata che il costo era, diciamo, un costo di mercato. Quindi un costo di mercato. Quindi in quel caso era corretto, quindi l'attenzione è altissima. E io credo che sia assolutamente fondamentale, perché non si deve ottenere quel risultato a cui ha fatto riferimento lei, cioè quelle varianti. Quelle varianti sono in realtà lo specchio del paese. Esatto. Perché è stato fatto uno studio da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione qualche mese fa, che è veramente sconvolgente. Perché adesso, nell'ultimo anno, con la nuova legge, devono mandarci tutte le varianti, proprio tutte. E allora abbiamo verificato statisticamente, c'è un dato scioccante, cioè nel 90% dei casi, 90%, che è un numero straordinario, l'importo della variante è esattamente identico al ribasso d'asta, esatto. Cioè lo sconto che ha fatto l'impresa per vincere la gara. Ma le dico, lo sconto esattamente all'euro, cioè fa impressione. Certo. Ecco, allora questo vuol dire che c'è un'utilizzazione anomala dello strumento della variante che va fermato. E questo però si può fare soltanto con una progettazione precisa, cioè l'amministrazione deve dire esattamente quello che vuole. Mm-hmm. Però invece fino a ieri non era così, perché l'amministrazione dava un progetto di massima e poi l'impresa decideva lei, l'impresa vincitrice dell'appalto decideva lei cosa fare. Allora, noi nel ringraziarla, voglio ricordare Michele Corradino, commissario all'autorità, all'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autore di questo libro Per chiare lettere è normale, lo fanno tutti, vogliamo sperare che non sia anche un libro un po'... Cioè ci lascia un po' di speranza, Corradino, no? Sì, sì, sì, ce la lascia. Dipende da noi, e anche da noi fare rompiscatole, inteso come giornalisti. Questo dati alla mano, perché a volte non lo facciamo abbastanza. Va bene. La ringraziamo, andiamo un attimo in pubblicità, perché poi parliamo, Oscar, sempre di pubblica amministrazione, in questo caso di migliaia di italiani che hanno vinto un concorso, pare 150.000. 150.000 è un numero che non dà l'idea, perché molti di loro ne hanno vinto più di uno, quindi sì, meno di numero, ma decine di migliaia che hanno vinto i concorsi di idoneità di abitazione, essere dirigente pubblico. La pubblica amministrazione ha bisogno di loro, preferisce non chiamarli, e adesso a fine anno scadono le graduatorie e se la prendono due volte in tasca, per in così tasca. Dire sei stato molto gentile in tasca, cioè hanno vinto dei concorsi pubblici ma non sono mai stati messi in ruolo. Esatto. E ora i pezzi di pubblica amministrazione che hanno bisogno di dirigenti pubblici, come l'agenzia delle entrate, tutte le agenzie fiscali, non li chiamano perché li vogliono selezionare loro, ne faranno altri di nuovi. Capisci il paradosso? E insomma, parleremo di questo tra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui. Eccoci alle 8:42 minuti. Eccoci, Oscar, ci sono tanti ascoltatori. Sentiamo se sono sintetici, per cortesia. Paolo da Milano che lida un po'. Grazie, Paolo. Grazie a voi, cercherò di essere veloce. Grazie. E faccio una premessa: mentre da un lato i parlamentari nostri carissimi votano l'8 agosto di quest'anno l'assicurazione sulla loro vita se vengono punti dalle zanzare e sono ubriachi, gli succede qualcosa, 350.000 euro, dall'altro abbiamo a circa 20 chilometri di distanza dalle zone terremotate 766 casette di legno pronte vuote, la manutenzione di queste casette 160.000 euro all'anno. Bene, sapete qual è stata la risposta del Presidente della Regione? Sì. Ma dove questo? Mettere... Marche, Umbria, dove? A 20 chilometri da noi, cioè non so se proprio Umbria. Che ha detto? In questo caso il Presidente della Regione ha detto ma volete mettere che sono molto più comodi negli hotel? Bene, voi volete mettere che meglio far andare queste persone a 20 chilometri di distanza e piuttosto sono molto più vicine con queste casette che hanno questa manutenzione? Tra l'altro, e chiudo, un imprenditore ha offerto 3 casette parlando con la Protezione Civile, che gli ha risposto no grazie, abbiamo bisogno solo di soldi. Ecco, riflettiamo su queste lei cose. Lei dice qua. Che è c'è anche un po'. Vergogna. Lei la chiama vergogna. Va bene, grazie Paolo. Comunque, Paolo, per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la questione dei prezzi comparati rispetto a quella base d'asta che ho ricordato prima, oggi pomeriggio alle 4:30 torniamo con molti di voi che ci hanno telefonato a ragionare proprio dei prezzi di quella gara e scoprirete alcune cose interessanti. Bene, ovviamente con Oscar, ricordiamolo, perché alle 4:30 alle 4:30 giustamente con la versione di Oscar, hai ragione, scusa. No, non voglio sembrare uno che poi in questa trasmissione parla della proprio, hai ragione. Vincenzo da Catania, buongiorno Vincenzo. Pronto, buongiorno Oscar, buongiorno Milan. No, io dicevo questo, sulle deroghe nelle gare, dico ci sono evidenti profili di illegittimità, che quando si fa una gara quella che viene aggiudicata è l'offerta economicamente più vantaggiosa, che chiaramente esce fuori da una valutazione dell'importo dell'appalto, di una serie che l'imprenditore, se si deve spostare, si fa i conti in tasca e dice se per 100.000 euro mi conviene montare un cantiere, cioè, se poi diventa di 1.000.000 di euro l'appalto dopo la gara, ma è evidente che c'è una violazione della par condicio, perché la valutazione deve essere fatta a priori, non a posteriori. E invece è la regola. Cioè, lei dice all'inizio vengono diciamo cacciati così molti imprenditori e poi le norme sulle gare, peraltro lì si annida anche poi la connivenza, ma perché non c'è dubbio. Appalti, esatto. Mentre poi la ditta che è piccolina e non riesce poi ad affrontare farà in subappalto. Ragazzi, però Vincenzo, abbiamo chiamato Tronca. Vincenzo, abbiamo messo lì Tronca per vigilare la foglia di fico, perché la politica vede il 90% delle gare così e non interviene, vabbè, capisci? Vabbè, vediamo. 90% va così. Speriamo, ecco, diciamo che ci saranno, io lo so già, ci saranno anche qui gli ennesimi scandali, speriamo che siano ridotti di numero almeno. Perché... Speriamo, ma soprattutto la reazione della politica sarà che chi solleva qualche problema su questo verrà trattato come rompicoglioni, perché così è, perché in nome del terremoto a questo punto bisogna avere la piena discrezionalità. Se l'Irpinia non ci ha insegnato niente, io non lo so, perché mica è gusto, figurati se io voglio complicare la vita a chi è senza casa, al contrario. Io non voglio sottoporlo ad avere poi per decenni, perché poi restano lì per decenni quando si fanno interventi discrezionali sbagliati. Ecco, tutto qua. Vediamo se sono considerati dei rompi, come hai detto tu, anche coloro che hanno vinto regolarmente un concorso. Pensa un po'. Concorso pubblico e che però lo Stato non chiama e non mette in ruolo, in teoria forse li giudica tali un po' dei rompiscatole e tra pochissime settimane scadono quelle graduatorie, esatto. Quindi loro tutta la preparazione, i concorsi che hanno vinto, i titoli acclarati non serviranno a nulla. Tenuto premessa, noi non vogliamo che chi ha vinto sia assunto se non serve, ma il problema è che a pezzi dello Stato servono questi dirigenti eppure non chiama chi ha vinto il concorso. Sì, e poi se non servivano perché si fanno i concorsi? Bravo. Mi verrebbe anche per pensare. Comunque, Assunta Muroni, per esempio, buongiorno, grazie buongiorno, di essere qui. Quanti concorsi ha fatto lei e per quanto è abilitata? Allora, io ho vinto due concorsi pubblici per dirigente. Dove? Sono entrata con un concorso pubblico come funzionario e poi sono idonea a due concorsi per dirigente, uno al Ministero del Lavoro e l'altro all'ANAC. Quindi lei è funzionaria pubblica e ne ha vinti due per dirigente. Per dirigente, esatto. Come me ci sono altre persone, insomma abbiamo superato un concorso, abbiamo dimostrato, come previsto dalla legge, di essere preparati a ricoprire il ruolo di dirigente. E poi non solo non veniamo premiati, ma veniamo umiliati, perché a dicembre scadono le nostre graduatorie. Cioè che vuol dire tecnicamente? Cioè lei a dicembre è come se non avesse partecipato a nessuno di questi due concorsi? Esatto, non avesse vinto. Come se non avessi fatto niente. Niente, un nulla. E nel frattempo l'Agenzia delle Entrate è bocciata quasi due anni fa dalla Corte Costituzionale, perché c'hai dirigenti nominati ad persona ma a tempo e non per concorso. Mica vi prende, perché dice che li deve scegliere lei, perché lei non è dirigente che può andare all'Agenzia delle Entrate, dice l'Agenzia delle Entrate, cara Muroni. No, noi abbiamo più di queste persone che non hanno superato nessun concorso e si vedono incoronate. Un'attribuzione di incarico senza concorso. Abbiamo di più, perché noi un concorso l'abbiamo superato. Quindi ci troviamo di fronte a una schiera di miracolati che non solo non hanno superato un concorso, ma proprio non l'hanno mai fatto. La chiamata diretta. Vi dico a lei, Giannino, e ai radioascoltatori, che recentemente anche Bassanini ha rilasciato un'intervista dove diceva che questo criterio dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale ad persona doveva essere un'eccezione per menti talmente eccelse, ma non è così. e lui stesso ha recentemente confermato che invece questo escamotage è diventato lo strumento per assumere nel pubblico in totale violazione della legge, proprio attraverso una segnalazione, una raccomandazione, che poi diciamo anche un'altra cosa. Renzi ha detto di voler immaginare una legge di stabilità che dia la possibilità di tornare a fare concorsi, parla di 10.000 statali. Ma di che concorsi parliamo? I soldi sono già stati spesi per fare dei concorsi pubblici. Lei dice ci sono persone che li hanno passati. Stia con noi Assunta Muroni, perché insieme a lei c'è anche Giancarlo Barra. Vogliamo salutare il segretario generale di Dir Pubblica, cioè la Federazione Dirigente e Funzionari della Pubblica Amministrazione. Buongiorno Barra. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci aiuti a capire quanti sono gli italiani, quante sono le persone in questa situazione? Ma le statistiche diciamo si avvicinano alla cifra che è stata detta in premessa, sono migliaia di persone. Per la dirigenza si tratta di circa 400 idonei, vincitori idonei di concorsi che non vengono assunti. Questi sono dati che si trovano poi anche nel sito della funzione pubblica. Insomma. Ma alle istanze che avete rivolto più volte al governo ricordando le graduatorie scadano e già solo le agenzie tributarie, quei 400 servirebbero a coprire esattamente più o meno i posti che servono, il governo vi ha risposto qualcosa? No, il governo non ha risposto nulla. Noi abbiamo chiesto di assumere immediatamente tutti quanti gli idonei alla dirigenza, perché nelle agenzie fiscali c'è una carenza di oltre 1.200 dirigenti, ecco, che quindi questi, noi abbiamo anche usato questa espressione un po' colorita per aprire la finestra, abbiamo detto, per far passare un po' l'aria viziata che c'è nell'ambito delle agenzie fiscali, dove si mesta sempre nello stesso tino, sempre senza con una serie infinita di escamotage per non risolvere la situazione. Qui c'è una responsabilità diffusa che non è, devo dire, radicata solamente nell'ambito delle agenzie, ma anche perché il MEF ha tutti i poteri per vedere. Noi abbiamo chiesto addirittura il commissariamento dell'Agenzia delle Entrate dopo tutte quante le sconfitte che ha subito in Consiglio di Stato e TAR, sì. Ecco, la Corte Costituzionale 2 anni fa, ma tutte le altre numerose sentenze Però. E ordinanze, cioè l'Agenzia delle Entrate e così anche quella delle Dogane si comportano come fossero dei privati cittadini, dei litiganti privati, non come un'amministrazione pubblica che dovrebbe avere nel rispetto delle istituzioni sentirsi un obbligo morale di rispettare le istituzioni e le decisioni della giurisdizione. Si comportano come vorrebbe fare un privato cittadino che, avendo molti soldi, insiste con ricorsi e contro ricorsi che sono addirittura temerari. Ecco, perché poi dopo noi andremo anche a chiedere l'applicazione della temerarietà in tutte queste. Nella Repubblica. Una battaglia che continua. Io vorrei capire da Assunta Muroni, voi che cosa chiedete esattamente? Almeno che vengano rinviati i termini, cioè che non vi scadano, come dire, a fine dicembre i termini per cui non siete considerati più idonei. La proroga delle graduatorie è praticamente necessaria, perché pur avendo la possibilità finora non hanno fatto niente, quindi ci vogliono i tempi tecnici e quindi urge una proroga delle graduatorie. Ma se proroghiamo e non assumiamo è inutile, quindi bisogna sia prorogare le graduatorie e rendere obbligatorie le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, cioè una pubblica amministrazione che non ha una graduatoria vigente deve attingere alla graduatoria di un'altra pubblica amministrazione che il concorso l'ha già fatto. Del resto fanno il ruolo unico con la riforma, esatto, di cui sono tanto fieri. È perfettamente in linea. Esatto. Poi tengo anche a precisare una cosa. La ministra Madia ad ottobre 2014 usava questo slogan: prima di nuovi concorsi esaurire le graduatorie esistenti. Ora vorrei chiedere alla Madia cosa le sia successo. Tra l'altro ci sono... Poi vorrei dire anche un'altra cosa. Chiaramente non si può non guardare alla situazione e ai progetti su Equitalia. qua ci sono dipendenti, tra cui dirigenti, che entreranno all'Agenzia delle Entrate tutti senza concorso. Io ho fatto un concorso per entrare nel pubblico perché così la legge dice. Non solo, ma bisogna anche mantenere integro il loro stipendio, che è quello dei bancari. Ma quale rispetto? Ma dov'è il rispetto della legge? Ci sono discriminazioni anche stipendiali. Tra l'altro, rispetto a un concorso ci sono persone, ci sono persone che ne hanno passate 18, pare, di questi, di questi concorsi. Questa è la situazione. Va bene, noi come al solito torneremo e vigileremo, e ringraziamo Giancarlo Barra. Più che dar Barra voce a loro, ma non perché, ripeto, non è così, assumiamo tutti. Il problema è che il paradosso, gente che ha vinto i concorsi, selezionata per merito, e migliaia di posti scoperti nella pubblica amministrazione. Perché non li prendono? E la risposta che viene data è: perché li vogliamo selezionare noi? Ecco, capito. Allora, caro Oscar, ci fermiamo qui per oggi, e poi domani sei pronto a votare? Domani sono pronto a votare. Non voti dall'estero. Non voto dall'estero. però domani dai, cerchiamo di dare un pochino anche agli Stati Uniti, perché... importante, insomma, come dire, ogni 4 anni è abbastanza importante. Ma questa volta che... voglio dire, è sembrato uno spettacolo più che, insomma, voglio dire, uno spettacolo, devo dire, con senso un po' critico, perché da entrambe le parti. Comunque, a domani. A domani, ciao ragazzi.